il cicalino. Cosa? Ah, sentito un cicalino. Ho detto, che cos'è? No, era un bipisi. Ah, qual è la cenove? Ehi, adesso è senza nulla. Ehi, Colareddo. Colareddo, senza nulla. 9:20, sì, va bene. Daniele, già lo sai, un vattino importante c'è. Sì, va bene, però, esce molto bene. E allora, sei andato là? E dove? Dovevi andare a quella riunione di lavoro? No, non era attivo, ce l'avevano i principali alla riunione, non lui. Ah, ti ha pagato. Va bene, va bene. Non mi stavo occupando i vetri della, di questa cameretta, oramai è vuota. Viene bene a pulirne anche. Quel cazzo di maestrale mi ha fatti a beffa. E tu non ci esci tra le cenopole? C'è freddo comunque, la differenza di stamattina. No, cra, niente, dai, io non sono uscito nulla nulla, sono andato alla Brico a prendere giù il sorgimento per domani, là. Tutto positivo è capo a brioscia, adesso ti mando un video, cra, che... io come sto, cazzo. Guarda, questa è la portante. Sì, 9:10 di portante muta e 9:20 modulata. Ottima, ottima. Va bene, va bene. Aspetta che te la giro, un attimino. Allora, già, torna al video di Minisani. No, negativo, negativo. Ai. Ne ho uno nel telefono dell'aria, però che abbiamo fatto sabato in campagna, la paura. Abbiamo fatto poco a Minisani arrosto, pesce, a me non piacciono. No, a me lo stesso, io le faccio per Gaia, per Daniela, ma a me lo stesso non piace. Ho sentito c'era un po' di gente nel Zinti, ma non mi piace stare lì, no? No, io sento, entro qua a fare due chiacchiere e basta, ma giusto così, faccio perché... Pensi di tu, se no, non mi giovano, è la prova che ti brua io. Sono stufo di stare... Se c'è qualcuno a fare due chiacchiere va bene, se no diversamente non mi interessa. Ho detto anche a Walter ieri, no? Mi ascolto volentieri, per carità, fa piacere ascoltarti, però no, non mi interessa. Io mandami il tuo video. Un attimino, sta caricando, Cla. Ma tu non è che ti ritrovi qualche scatola vuota di cartone grande, no? Ci vuoi mettere quest'angolino di tutta questa roba? Oh, ma sì, te l'avrete volentieri. Io le scatole che sto usando vado all'Eurospin la mattina, quando, perché arriva il cambio, un prezzo, prima che loro aprano, capito, vado prima delle 9, verso le 8:30 e me le prendo. Infatti ci ho messo quella roba là, vabbè, quella scatola là, tutti i baracchini, tutte le altre cose che non mi servono, lo stesso anch'io ho usato delle scatole, però me le ho portate sui mansarda, capito? Però devi andare presto lì, quando arriva il camion, lì alla... Che mai capito? C'è il nuraghe lì, capito? Lei ha positivo, no? Così mi finisco a buttare giù quest'angolino. È rimasto solo questo, là. Il resto stamattina ho buttato giù tutto. Ah, tu vai, c'è la bottezza, chissà che mi ci rendi. Sì, guarda, come sto modulando, Ma questo è agganciato, è al massimo. Ma è la portante di un vate lì, non è di più. Cazzo, mi hai fatto vedere pure un garraggio. Cazzo, se mai ci vengo io a portare il garraggio, e a c'hai Jack, tu. Ah, fate tutto la vacone. A casa di zio. Il garage l'abbiamo tutto sistemato, quasi tutto, là. Un viaggio l'ho portato via e il resto l'ho quasi tutto sistemato. Infatti ho preso un po' di cemento per domani mattina e così lo faccio tutto attorno alla casa, faccio tipo marciapiede. E niente, ho preso il cemento per farlo domani. No, vabbè, oggi c'è martedì. Mercoledì e giovedì un culo che non ti dico, è arrivata la bettumiera, quella la nuova casa, a manetta, Quanto tanto è una 10 bettumiere? 7-8 metri cubi, quanto è? Non so, se è un 3 assi è 8 metri, se è un 4 assi sono 10 metri. No, un 3 assi era un 3 assi, con tutta la salettina, con lo scivolo fino ad arrivare al cancello a Monteoro, ma... cimino mio, ma gli ho fatto un culo, cazzo, dovevi pigliando i burchini per il mal di schiena. Sì, vabbè, perché non si è abituato, va. E io ho capito, vabbè, eravamo in quattro, però già lo sai quando lancia la bettomiera, già, vabbè, noi ce l'abbiamo fatto lì da te, diverso. Però quando c'è il calcestruzzo in mezzo, minchia, è pesante a tirare la riga, Beh, io lo so, ma noi domani mattina, noi, io con il vecchietto siamo. Saremo, ci saranno da fare quattro impasti, da cinque massimo esagerando. Il cazzo ce ne hanno fatto tutto l'intonaco con le mattonelle. Ho buttato tutto quel mobile che avevo fatto io, hai visto dove c'era la radio? Quello ho buttato giù tutto, ho lasciato, addirittura ho lasciato ancora quell'angolo dove c'era la radio. Ehi, se mascivi. E c'è il vendita lampano in tutto, dove c'è la cosa stai lì a pezzo a pezzo, lì ne staccavi tutto e te lo spostavi nella verandina con una gadrea giusto per accenderlo, ogni tanto e basta, ma lì vuoi fatomi. Sì, netto ritardo, vabbè che tempo ne hai poco, però lì vuole fatto. Bugato tutto, incamiciato, intonacato, e pulito tutto e messa la roba che tu sai lì, se no è un casino. Arrivi di io e sei ancora uscito, la vuoi più caldo me? Tra io questa roba non è che la posso bugare ai roghi e bullire in terra, no? Ma al momento dentro le scatole, capito? Adesso una mattina faccio un salto e se trovo qualche scatola grande. C'ho meglio roba da mettere dentro, capito? Quindi non è che le tolgo da qui e le metto buttate in terra così, no? Lo so, ma ci vedrà, però tu non mi hai detto niente. Non sono venuto a portare via tutta quell'altra roba, tu non mi hai detto niente, se no qualcosa l'avremmo fatta, capito? E certo che sì, lì bisogna tutti quei cavi, cavetti e tutta quella roba lì. Tutta quella roba seria bisogna mettere una scatola buona, robusta e mettere magari dentro in veranda, al coperto, ben chiusa, capito? Non lo so, però quel lavoro lì è da fare, se no minchia, davvero non li vuoi che bevi, Sono a buon punto, mi cosa si intende, là. Mi è arrivato da adesso da fare quella parete a fino, che io sarebbe buono a farla a fino. Me la striscio e poi a fracassarla, cosa ci metto poco. Mezza giornata ho fatto tutto lì. No, ma c'è dei buoni materiali di Albricome. Abbiamo preso per Monte Oro per fare quei murettini che ci sono, là, l'investimento di quei murettini e pilastrini. E c'è quella malta già pronta, praticamente io manco lo sapevo, me l'ha detto il muratore. E c'è sabbia, cemento, tutto mischiato, tu non fai altro che metterlo nella carriola, mettere l'acqua ed è tutto pronto per incamiciare. Ma io non devo incamiciare niente qua, Ocla. Io devo solo ed esclusivamente dove tu sai, io tolgo la cucina, lì farlo, strisciarlo a fine e basta. Devo tappare tutti i buchi dei tasselli dove ce ne ho appesi tutti i pensili e poi ho tolto le mattonelle, no? Che c'erano, ti ricordi? Quindi io la striscio tutta a filo con la parete, ma cosa vuoi siano? Sono 2,50 di altezza per 5 metri lunga, e non ci vuole. No, lì sì, no, ma per intonacare sto dicendo, c'è quello sacchetti già pronto, questa è una cazzata, ed è, gli boccio la carriola, messo l'acqua direttamente a intonaco, proprio intonaco pronto si chiama, buona cosa del genere, e poi c'è anche quello per incamiciare, quello fine già pronto. E vabbè, cosa stavo dicendo? Cazzo, non mi ricordo, vabbè. Io non so che c'è quella, il premiscelato, quello pronto, c'è anche io due sacchetti di quello. Ma io se lo va bene, per fare il lavoro devo fare io, capito? No, devi incamiciare, tappare quei buchi e coso e incamiciare. Ma perché l'intonaco è uscito anche da dove hai tolto le mattonelle? No, le ho uscito l'intonaco, ma c'è il collante sotto, quindi per non togliere il collante adesso cosa faccio? Io le do una strisciata a tutto e così diventa tutta unica, capito? Tutto uguale e poi non faccio altro che imbiancare. Viene il lavoro. Poi quella parete cosa ci va? L'armadio, Massimiliano? Ma adesso poi una volta che chiudo la camera qui che metto la porta, chiamo quello delle camerette che è un amico mio e vediamo un po' se metterlo in tutto quel muro, l'armadio, boh, come me, perché tanto non ne metto un letto singolo, capito? Se lo metto una piazza e mezzo, perché poi la bambina non devo pensare solo quando è piccola, quando cresce un po' il lettino si dorme un po' male, invece in una piazza e mezzo già meglio, capito? E come c'è l'aria? Io l'aria adesso la piccola avevo preso direttamente il letto grande e c'era ancora, capito? No, lì stavo pensando, ci sta bene in quella parete che è molto lunga, ci sta bene una parete di quella ponte, molto belle, ne ho visto molto belle, lì che c'ha molte cose, capito, da mettere, dove ci va anche la TV sopra, se non mi ricordo, comunque ce n'è molto belle, studiala bene perché viene una bella cameretta lì, Io non so che viene una bella cameretta, io adesso quando già Alberto già in gabba, viene lui direttamente e vediamo un po' cosa mi consiglia, sì, a voglia, magari tutti avessero una cameretta in mano, mica che manna a voi. Che si manna? E manna sì, è grande, no, io, fortunatamente anche questa, se non che quella di Ilaria è uguale alla camera da letto mia, precisa identica. Va bene, no, ma quella va bene, anche perché c'è la finestra, c'è tutto, capito, c'è tutto, devi chiudere quella strisciata, devi fare tutto quel corridoio per accedere alla veranda, il resto cosa le stai rubando, 80 centimetri? Sì, le sto rubando, lascio 80 centimetri, lo sai perché lascio 80, mi avrei lasciato anche di meno, però... Il problema è che se mi si rompe la lavatrice o balle varie o io lì c'ho anche il filo della polfetta, ho capito. Se stringo troppo, dopo questa roba non esci da noi, che tocca buganire dal balcone. Ed è un casino. Invece lascio proprio il coso per togliere, le lascio 80 centimetri per 1, 2, 3 metri, da circa, per 3 metri. Poi tutto il resto è tutto camera. E questa è 5x4 è la camera. Io ci vede, è lunga e larga. Sì, beh, che se ve la vai, la vuoi tocca calarla con una gru, e se vuoi invece la fatti a farsi anche ciucciù. No, va bene, quel corridoietto lì con quella porta, viene un capolavoro, viene lì, alla grande Massimiliano, tranquillo. Ci vede proprio, dai, che è organizzata bene. Anche lì avendo la finestra, tutto, è ottimo. Vabbè, dai, piano piano, e d'altronde il tempo è quello, non c'è niente da fare, il tempo è quello lì, adesso mi anch'io la mattina lo stesso per andare a Monteoro con Gaetano, e siamo già messi d'accordo perché anche domani mi pare che venga il muratore, perché c'è da fare qualche altra cosetta, e vabbè, piano piano gli anni ci bruci. Piano piano, non ti preoccupi. Io lo so, ma te l'ho già spiegato. In fretta possibile, ma no, non tanto per me, io a me non me ne fotti nulla, io fretta non ne ho, Massimiliano. Fretta non ne ho, però questa sistemazione dei ragazzi è fatta, se no è un casino. Io non posso stare poi di sì, un bello che v'è a mettermi a fare cose pesanti, capito? Anche perché anche l'anno scorso mi ha dato un cenno, soprattutto col caldo, e soffro un bel, sto soffrendo un bel, non ho capito perché, non l'ha mai fatto il lavoro, adesso che sono fermo, l'anno scorso mi ha dato un po' di fastidio, mi dava il caldo, capito, mi si abbassava la pressione. Sì, vabbè, ancora già sta facendo fresco, ma io penso che ancora prenderemo ancora qualche passatina d'acqua, capito? Ecco perché mi sto facendo quello del marciapiede. Perché in poche parole lì la pendenza è al contrario, capito? Quindi l'acqua va a finire sulla casa e io non voglio che finisca sulla casa, ma voglio che finisca dall'altra parte. E visto che avevo un po' di materiale in avanzo, che ancora ne ha avanzato un bel. Quindi adesso mi faccio quel marciapiede, poi tutto quello che avanza butto in terra questo mobile, poi chiamo Roberto, un amico mio, che c'è tutto in altro gavioncino e in discarica. Sì. No, vabbè, piano piano. Tempo bello sta facendo, infatti stiamo approfittando anche noi. Stiamo approfittando, però, come hai detto tu, ci arriva qualche qualcosa di acqua, bisogna fare adesso questi muretti, queste cosettine che sono matte, niente di che, però la cosa più grossa è stata fatta, l'ingresso del cancello, capito? Quello è stato fatto, l'ho saldato, tutto, l'ho fatto il calcestruzzo, è stato un bel lavoro. Poi sono due muretti di contenimento che arrivano sui dai pilastrini, quelli che diventano attaccati, il muratore, tutto fatto. Poi c'è da fare gli altri due pilastrini, poi il cancello l'avevo già verniciato, tutte cose che sono da fare esternamente bisogna fare adesso, perché è andato anche domani che sono in quasi tutta Italia, in quasi tutta Italia sole, addirittura dai 16 ai 20 gradi. Ha messo tutta la settimana buona fino a sabato, quindi bisogna approfittarne. No, io stamattina sono salito sul tetto perché l'altro giorno quel vento me ne ha staccato un pezzo di cartone catramato che c'ho sulla veranda, capito? Quella piccolina che ho chiuso. E allora mi ho saldato il cartone catramato lì, stamattina, mi ho portato sulla bombola, me l'ho fatta mattina presto che non c'era un filo di vento. E poi invece verso le 11 si è alzato questo venticello che si stava bene, però avevo già finito io. Poi ho messo la rete lì in quel muretto che mi ho fatto, in quella chiusura dove c'è il cancelletto per uscire quella stradina. Ti ricordi, avevo messo i tre paletti e non c'era la rete, stamattina mi ho messo la rete. Sì. Io va bene. E ieri notte, allora c'erano un po' di vento, c'erano delle raffiche di vento, non so se la cercare di nuovo, poi stamattina ha calmato, era bellissimo, poi metà mattinata si è messo di nuovo vento, però non era forte. No, cartone catramato, vabbè anche lì, nella veranda quella grande c'è le tegole, capite? C'è il cartone catramato, però c'è le tegole sotto, quindi non le fa niente. Non mi fa nulla, devo stare attenti a questi venti che ci sono adesso, cazzo, come l'altro giorno, andiamo a passare di greccare, è allucinante, ma forte, veramente molto forte. E dai, passiamo a fine febbraio, adesso a marzo inizia la primavera, iniziano i fiori. Eugenio, c'è stato anche un break, ciao Eugenio, buonasera, ben ascoltato. Bacio, devi essere in macchina. Avanti break, chi è? Salutone, ciao Cla, Daniele. Ciao Daniele, buonasera, ben sentito. Compagnia di Massimiliano. Eugenio che intanto non sente. Avanti Massimiliano, senti a Daniele. Sì, positivo, non so se lui ascolta a me, dai, ciao Daniele, ciao Gino, ho sentito anche basso. Salutone Massimiliano, Eugenio non lo sento neanche. Dani Luce. Infatti sta parlando. Eugenio, dove sei? Non ho capito, ho già detto Massimiliano, sta uscendo? Sta uscendo dal molo Asi, capito? Sta uscendo dal molo. Ma non è possibile che c'ho davanti il portatore se tu sei l'unico che dal molo Asi non ti intendo che. Tutti i camionisti parcheggiano in Chivi, arrivi, no, Verruti, tu sei Santiago Treghe. Chi c'ha chi non vedo lineare in macchina, mi? Io ce l'ho, mi ce l'ho voi. Vai, che tu esci bene perché ti hai comprato tutta la roba mia, non hai capito? E anche chi c'è da girare due, lui ci vede, la massa di nefaria. No, anche perché l'MB più 5, l'antenna e l'Uranus, qui c'è nuovo, la si intende. Al furgone ci vuole una radio seria tipo questa, capito? Così è, Daniele. Si conferma, io sto cercando l'antenna alla stazione fissa, se qualcuno ce l'ha si faccia avanti. No, io di quelle non ne ho, di macchina, antenne così, di vetture, cose, qualcosa ce l'ho, ma di casa niente, forse c'ha qualcosa Claudio, non so. No, veramente va il piantone, me l'ha rimasto, veramente va vecchia, e tu mi... I centrali li ha volati tutti a Fabrizio che ci aveva costruito una verticale multibanda. Non ne ho. Direttive e basta. Non c'ho niente da niente. Sto già un po' di tutto intanto. E oggi, quando non c'è nessuno qua nel canale 10, vattene al canale 20, che ci sono le radio vintage, così tu sei un vintage e parli con loro, capito mi hai? Vabbè, ma non ce ne sono qua, io ho poca attività sto facendo, ma ogni tanto già ascolto sul 20, Vai lì che ci sono gli anziani, tutti vintage, e parli con loro, almeno non ti annoi. Avanti Massimiliano. Positivo, positivo, io va bene, no. Va bene, va bene. Daniele, quel 48 ex mio, sempre ce l'hai, sì. Questo è Massimiliano. Questo è che adesso è a riposo, dai, però sono riuscito a farlo ripartire al 100% adesso. Vabbè, adesso non c'hai modifiche però. Ah, adesso sono spente. Vabbè, passale la calamita, voglio ascoltarlo. Aspetta, rifacciamo la medicina. Camminamento, vai. Ora, guarda un po' com'è questa storia, se sta girando l'elicottero qua. Sì, sì che sta girando, metti che a maletta ce l'hai. Calma Massimiliano, sono indicato di regolarlo. Guarda adesso come 1, 2, 3, 4 e 5. E se puoi aumentare un altro pelino, dimmi che è. Guarda un po', ora, 1, 2, 3, 4 e 5. Già va bene, ma sicuramente quella radio è stata un po' frugata, perché l'eco non girava così. Quando ci avevo io girava bene, però sicuramente è stato un po' manomesso là. Non so chi ce l'aveva, boh. Va bene, dimmi Eugenio, cosa stavi dicendo? Guarda, a me arrivi Santiago 7, a Claudio non lo so, avanti qua. Oh vai Eugenio. Sì, Santiago quasi 7, anche a me sta arrivando adesso. Ma Daniele non lo senti oggi? Daniele, tu non lo senti Eugenio? No, Massimiliano, adesso la mia antenna è più sorda dei sordi. E anche troppo che sei riuscito a farla scendere in stazionaria, adesso sta andando senza accordatore, sono a 1 e 1 di stazionarie, perché è una boomerang che ci è rimasto solamente lo stilo centrale, adesso è tutta adattata. Ma sì, a casa adesso Daniele. Cava, sono a domo, un attimo che mi sto squillando una bassa, aspetta. K positivo, tutto a roggere. Ma io non so neanche dove abita comunque Daniele, a me mi arriva a Santiago 6 a picchi di 7. Tu adesso mi stai arrivando a Santiago 9, Capo Daniele. No, Daniele Motrice Pazza è trasferito forse già quasi 2 anni su in Piemonte. Non lo so, in che zona abita Daniele qua? Via l'Italia, ma c'è una boomerang, non lo puoi mai sentire, coperto ai palazzi. Arriva a Santiago 9 qua a casa, neanche, 8, fatti il conto. Gira gira, è meglio mettere un'antenna di macchina lì sopra un palo, ed esce meglio. Beh, la boomerang lo sappiamo com'è, se non è indirizzata non è che lavora molto bene, poi è bassa, capito? Lui siccome c'ha il problema della mantovana non viene bene mettere, perché sul tetto non può mettere, però c'ha una bella ringhiera all'ultimo piano e può mettere lì una di quelle antenne tipo quella che c'ha Marco, capito? Una di quelle che è leggera, non è impegnativa, a montare la mantova lì ci abbiamo provato una volta con Franco Califfo, Cattini al Travaglio, Baccarindè. Viene malissimo, bisogna fare una guida scorrevole, un tubo scorrevole telescopico, prima col quadrato, saldata la ringhiera, in modo che scorra e poi l'allunghi, se no è un casino, un lavoraccio. Ci sono? Dove? Da casa tua? Sì, vabbè, oggi però tu sei aperto, nel senso io ti vedo a te, capito? Anche a lui vedo, però lui a uscire da lì è un casino, in mezzo ai palazzi, non fa, è un punto molto, molto brutto lì. E bisogna, per uscire un po' discretamente, bisogna mettere un'antenna come Cristiano. Avanti Daniele. Cava, e quindi Massimiliano, come deve girare di più quest'eco che me la sorteggia adesso? Aspetta, l'ho parlato in due. Va bene, oggi riprendi da casa, va. Stavo dicendo, perché non si può mettere? Si può fare tutto, gli alusai, là, e due staffe attaccate alla ringhiera, il tubo telescopico si può portare sul tetto, quello problema già non ce n'è. Gli alusai lo abbiamo fatto da Ghitu. Sì, Massimiliano, però lui c'ha 1,20 m di mantovana che sporge, quasi a coprire il poggiolo, capito? E quindi l'antenna devi mettere perpendicolare. Per eliminare quella mantovana, non so se mi segui, no? Il petto spiovente con la mantovana che esce 1,20 m dalla parete del poggiolo, quasi a coprire tutto il poggiolo, se non lo copre poco ci manca. Praticamente per eliminare questo problema cosa bisogna fare? Si siccome lui c'è la ringhiera quadrata, allora si saldano due quadri, no? Uno sotto e uno sopra. All'interno di questi quadri, dello scatolato praticamente, si mette l'altro scatolato più piccolo a fare come guida, no? Si tiene dentro, si saldano prima le staffe, poi si mette il tubo, no, nelle staffe, e si piazza l'antenna, per poi farla uscire fuori, devi tirare fuori i due scatolati, altrimenti non ce la fai a montare l'antenna. Poi bisogna vederlo, però bisogna anche vedere se glielo fanno fare questo lavoro, capito? Casa Gioia, che è un problema? Sotto ci abita lui, sopra ci abita la mamma e sopra ci abita lo zio, sopra a metà, così è Daniele, a metà ci abita tuo zio e sopra, non mi ricordo adesso, comunque è tutta vostra. Sì, claro, esatto, a metà c'è mio zio, sopra c'è mamma e sopra c'è la mansarda. Comunque adesso ho chiesto pure all'altro mio vicino e forse mi dà un... diciamo, voleva un po' se c'era un posticino per far mettere un palo, dai, forse ho risolto il 90% dei problemi. Ma perché tu nella soffitta non puoi accedere, Daniele? Dalla mansarda a salire nel tetto io non ho possibilità, capito? Anche se ce l'avessi, diciamo, quel muretto che funge da... che fa la giunzione dei due spioventi, che uno resta più alto e l'altro resta più basso, è basso, capito? E qui non fa a metterlo, mentre da mio zio c'è più muro e posso mettere un po' di antenna, capito? Un po' di palo in più. Sì, però io una volta, cioè se ti dà, vabbè, questo pezzo il tuo vicino, io ti consiglio, io poi ognuno è libero di fare quello che vuoi, una volta che stai mettendo l'antenna, metti un'antenna, ma come si deve, un'antenna come si deve, a Romanco non va più, ti metti anche un'antenna VU palo palo, così puoi anche fare qualcosina, ricevere, fare. Metti lì l'antenna, scendi sul cavo e si è a posto, così non stai tutti i giorni salendo sul tetto, capito? Se la sistemi bene e te la metti una volta e buh. Sì, infatti Massimiliano, quella è la mia intenzione, capito? Però l'altro problema è che non faccia TVI, perché lì è pieno di antenne TV, capito? Ma non le facevo prima, amico, non l'avevo visto, nelle condizioni in cui era la vecchia antenna, che era alle spalle, diciamo, delle antenne TV. Non penso che se adesso la piazzi a regola d'arte crei altri disturbi, capito? Allora, ti spiego, Daniele. Allora, io ho la Mantova 1. Allora, io a un metro dalla Mantova 1 ho la mia antenna, poi ho l'altra mia antenna, sempre TV parliamo, perché io ho due antenne TV. Poi c'è quella di mio padre, quella di mio zio, quella dell'altro mio zio, cioè sono tutte più o meno da partire da un metro e mezzo arrivare a tre metri, è tutto pieno di antenne. Tu una volta che i radiali li fai salire più in alto dell'antenna, cioè dell'antenna TV, io penso che tu non hai problemi. Sì, quello sì, però ripeto, prima che c'era la Mantova Turbo, anzi solamente il nome c'era la Mantova Turbo, che poi era, non si sa che antenna fosse diventata, che ci mancavano radiali, e poi la massa riflettente era attaccata al tetto, quasi già l'ha vista, e a ridosso c'erano tutte le antenne TV, capito? Però mai un disturbo, funzionato sempre bene, quindi ripeto, se dovessi metterla poi dall'altra parte, messa bene tutte cose, non penso che crei più disturbi. Sei positivo. Aspetta che è rientrato Eugenio, vediamo un po' se ti ha ascoltato. Eugenio. Adesso riesco a tirarti fuori, dai, pio pio sei qua, però sei di Santiago 3, Radio 2, dai, già va bene. Io faccio già bene, non riesco a capire. Ha detto che ti ascolta, Santiago 3, Radio 2, oggi. Cava. Vai, Claudio. Ma, vabbè, oggi c'è Santiago 9, non c'è problema. Ho detto, oh Daniele, ma quel baracchino modificato, sarà l'eco e poni la potenza tutta al massimo, grazie. Allora, qua la potenza è al massimo, ecco, non è Ocla. Guarda, il Mickey Gain è a manetta adesso. E quanti watt ti sta dando? Allora, qua mi sta dando, su questo rosmetro, wattmetro mi sta dando 10. Arriva più forte Eugenio di te da Porotoce che tu. con l'antenna non c'è più una cicca, Daniele. Per essere a Sassari arrivi molto molto basso. Santiago 8, sì, Eugenio Santiago 9, la produttoresa. Tu sei in Vialetta, ragazzi, davanti a me, ti vedo, ti immaginati tu quanto è coperta quell'antenna, Massimiliano. Siamo sul 20 con Franco, se vuoi passare là, se non ti dispiace. No, Giulio, io rimango qua sul canale 10. Ti ringrazio, ma c'è Massimiliano, sto facendo due chiacchiere qua, no? Non ci vengo sul canale 20, Giulio. Ok, qua. Beh, allora ci sentiamo dopo, là. Vediamo un po' cosa ne pensa Franco, anche perché ti dice Walter, eccetera, eccetera. Ogni tanto si fanno delle prove e vediamo un po'. Adesso io non vorrei che fossimo tutti insieme, però ormai abbiamo iniziato da un bel po' di tempo in quel canale e voglio continuare anche per una questione di educazione. Però ci sentiamo più dopo, va bene? Ma figurati Giulio, non ti preoccupare, io vi ascolto sul canale 20, ma non mi interessa stare a fare prove, provette, io sento, mi piace fare due chiacchiere, mi intratto Massimiliano, fra un po' spengo. Vai tranquillo, non ti preoccupare, lo so che siete sul canale 20. Vai sereno, non ti preoccupare. Ok, grazie qua. Scusa l'interruzione, Massimiliano e gli altri amici che sono sul canale, dai, che sono entrato così a gamba tesa. Ok, vado di nuovo sul 20 e poi vediamo come funziona la situazione, ok? A dopo. Ciao, ti ho detto non ti preoccupare, fai pure quello che devi fare. Avanti Massimiliano. Positivo, ciao Giulio, là. Non c'è problema. Allora Daniele, ti spiego una cosa, quella radio lì, quando ce l'avevo io, quella radio lì con due watt di portante bianca saliva a 18-20 modulati. Dovrei attaccare l'altro rosmetro per vedere un po' quanto mi stanno di watt, perché con questo arriva a 10, su quell'altro devo mettere la scala a 100 che va intorno ai 15-20. Poi io ti ripeto Daniele, quella radio io prima l'avevo fatta fare, no? Poi non mi piaceva così e gliel'avevo rimandata e gli avevo fatto aggiungere un altro finale che faceva tipo da doppio modulatore, capito? Infatti faceva da 2 watt e saliva 18-20 modulati. E c'avevo una bella radio, però adesso, vabbè, dopo tanti anni, adesso è passato un po' di mani, quindi non so cosa sia successo. Perché io, il piccolo vedo che c'è, però la radio la sento bassa, capito? Cavagano Massimiliano, non te lo so dire cosa gli sia successo, cosa gli abbiano fatto, ho sempre tenuta così. E solo adesso, in queste due settimane, diciamo, che l'ho riaccesa, diceva quel problema che non si attaccavano le modifiche, cioè non si sentiva, le modifiche si attaccavano, però non stava uscendo il parlascolta, il beep, queste due cose non funzionavano, capito? Poi man mano che l'ho usata nei giorni precedenti, man mano che scaldava si è ripresa. Perché? Sì, un secondo. Daniele, ma che microfono stai usando? Il suo originale del 48, dell'altro apparecchio. Paghissimo, guarda se c'è un Midland, un CTE, un Tele, un microfono del genere, là. Che esce molto meglio, è per quello che si sta facendo così con la radio. Va bene, c'è stato il break, avanti Giulio, buonasera. Sì, scusate un attimo se vi interrompo, ciao Giulio, io faccio un attimo di bianco, sto uscendo un attimo a fare una commissione, la riprendo dopo. Riprendi tu e poi fai entrare Franco anche, dai, vai Massimiliano. Ciao Daniele, infatti, Daniele anzi, e non mi ero ricordato di salutarti. Avanti per Massimiliano. Assolutamente, ben accetti tutti, io. Io sono una vita che non entro in radio, quindi oggi l'ho acceso così giusto per far scaldare la radio, ma già lo sai benissimo Giulio che sono una vita che non entro. Avanti Franco, che non so che Franco sia, comunque avanti. Buonasera, Franco qui da Sassari, zona Monte. Ciao anche. Massimo, ciao Daniele, ciao Claudio. Avanti ancora che mi fate entrare, Massimo. Ciao, ciao Franco, buonasera 73, dai, avanti Daniele, a te l'antenna. Ehi, dai, salutoni ai nuovi entrati, dai. Io vi devo lasciare una decina di minuti, dai, già rientro subito. Vai, Claudio. Va bene, ciao Daniele, ci sentiamo dopo allora. Ciao Giulio, ciao Franco. Ma figurati Giulio, non voglio neanche sentire queste, di queste cose, ma stai scherzando, io già vi seguo, vi sento, fate prove, provate perché non avete, ma a me non mi interessa, non, ne ho poca voglia, sono sempre impegnato, quando arrivo a casa sono stanco, mi siedo e vi ascolto, ma non mi interessa chiacchierare lì a fare prove. L'ho detto anche a volte, non è che lo sto dicendo solo a te. E c'era Massimiliano qua che stava provando la radio e mi sono trattenuto a fare due chiacchiere con lui, ma chiacchierare proprio del più e del meno. Tutto qua. Avanti Giulio, riprendi. Ok, qua, figurati, no, ma io non intendevo quello. Qua, ci mancherebbe altro. Intanto mi fa piacere anche di sentire dopo tanto tempo anche Massimiliano, perché ho sempre apprezzato lui come amico e come modulo anche, per cui figurati se io sto pensando quello, perché mi dispiace rimanere così divisi uno in un canale o l'altro, eravamo là perché non c'era nessuno su 10 e dunque avevamo l'appuntamento direttamente lì, abbiamo fatto queste piccole prove, ma niente di particolare, tutto funziona alla perfezione ed eccoci qua. A me piace che la compagnia sia un pochino più allargata, non due qua, due là, come fanno in un altro canale che non faccio roba, è nemmeno un numero di canale, per cui figurati, è nemmeno politica comunque, figurati. Vabbè, avanti Massimiliano, ho ascoltato la parte mia, va. Positivo, dai, positivo Giulio, e purtroppo io sono molto innaffarato questo periodo e tra lavoro mio, poi lavoro che sto facendo qua a casa, quindi le radio sono un po' accantonate, capito? Sono un po' tutto dentro la scatola, infatti sto aspettando anche un'altra scatola, bucarne tutto blu più, perché devo buttare giù anche questo mobile dove c'ho le radio. Quindi stasera, siccome ne ho approfittato, mia figlia sta studiando, mia moglie è giù con mia figlia, ho detto adesso salgo su, accendo un po', vediamo se c'è qualcuno e faccio due chiacchierelle, ma anche era giusto per far girare la radio, che questa qui me l'aveva bruciata il fulmine, con la radio proprio spenta addirittura, me l'aveva bruciata e l'ho mandata a riparare e la stavo provando se era tutto a posto là. Io ti sento in maniera splendida, Massimiliano, il segnale lo stesso è sempre il tuo, dunque fortissimo, di conseguenza non vedo cosa, non me ne sarei nemmeno accorto che una radio che magari ha avuto dei problemi, nella maniera più assoluta, va benissimo, non bene, benissimo Massimiliano, avanti Franco. No, anch'io l'ascolto veramente bene, sì, buona radio, poi mi dirai anche dove l'hai riparata, avanti ancora. Allora io questa radio l'ho riparata in Sicilia, io più o meno il mio dottore è in Sicilia, è a Siracusa, capito? È a Siracusa. Tu pensami, guarda, il giorno che è successo tutto il danno c'era Claudio qua, stavamo facendo un lavoretto giù a casa e le radio erano tutte spente e mi ha bruciato tutti e tre i finali, questo è l'S9. No, c'è dei picchi di modulazione veramente belli. Vabbè, questa diciamo che è un pochino, come si può dire, un po' elaborata, va. È un po' spinti, dai, è tutto modulazione. Positivo, sì, avanti. Sì, è così, è proprio tutto modulazione, va. Avanti, Claudia. Ehi, KK. Ehi, è troppo che non ho fatto. Stavo facendo, lo stavo facendo. Dopo la scala mi fa. È iniziato a piovere a dirotto. Sono arrivati due fulmini e due tuoni agli intesi, proprio è caduto a fianco alla casa di Massimiliano, gli intesi, ma non solo quella ti ha bruciato, la DSL ti ha bruciato un sacco di roba. E come era successo a me, cioè avevo rimesso l'FT1000D, appena comparato, però con la calamità naturale non c'è da prendersela, purtroppo è temporale, siamo così, a volte siamo negligenti. Lasciamo le prese attaccate, come entra, distrugge. Vabbè. Va bene, va bene. Ok. Sì, frate, stai arrivando come al solito, ti ho sentito, ti ho seguito anche stasera con Giulio che facevate le prove. Giulio, non era da te, tu non devi lasciare sempre tutto com'è. Non devi né cambiare impedenza né niente, è un problema suo in FM, perché anche lui era tutto spostato, tutto graffiante, tutto brutto in FM, mentre invece in M va molto bene, quindi è un problema suo, non c'entra niente tu. Avanti, riprendi Giulio. Ok, grazie intanto per la conferma qua, ma noi l'avevamo fatto quelle prove già da tempo fa, subito dopo che era stato revisionato alla grande questa mia radio, e mi avevo confermato che tutto era in ordine. Infatti io ti ho anche citato così, anche se tu non c'eri in frequenza, dicendo a Franco appunto che le prove erano state fatte proprio con te e tutto risultava in ordine, almeno da parte mia, ma glielo ho detto a Franco, glielo ho detto. Ma lui l'ha capito perfettamente, ce lo può confermare. Avanti Massimiliano, fai girare tu dopo per Franco, vai. Sì, positivo. Franco, ma perché tu devi riparare qualche radio, oppure perché mi hai fatto questa domanda? Beh, non si sa mai, ma pensavo che fosse qua in zona, tipo Sassari, dai, in zona così, per dare una bella calibrata al tutto, non è che sia agguato, è che in FM non è ben centrato. Io Franco, io la verità, non voglio offendere nessuno, ma non lo so se c'è qualcuno competente, sì, forse qualcuno competente c'è, però su altri tipi di radio, sui baracchini non lo so, capito? Credo che faccia anche baracchini, ma la gente che riallinea le radio sono poche. Sì, non è una cosa importantissima. Tenendo questo, il Samurai esce molto meglio, in FM è più centrato. Sono quasi giocattoli, come dicevo a Giulio, questi qua. Non sono giocattoli, perché ci sono anche radio baracchini seri, ci sono anche baracchini seri. Io ne ho uno ed è abbastanza serio, capito? Forse uno degli unici un po' seri come tipo di baracchino. Va bene, non voglio fare polemica. Avanti Giulio. Ok Massimiliano, certo, basta pensare quelle S9 che stai utilizzando adesso per capire che radio è. L'S9 è una gran bella radio, indubbiamente, poi sistemata da te come hai detto poc'anzi, va bene, è perfetta veramente. Guarda, se tu non me l'avessi detto che stavi usando il baracchino dell'S9, io avrei capito o avrei pensato che stavi usando una KF il 27 o Massimiliano, per cui ti puoi immaginare, questo è per darti un pochino la valutazione di come stai uscendo tu, ecco, stai uscendo in maniera splendida, proprio perfetta. Se tu lo sai, se una cosa, una radio non mi piace, lo dico, anche perché è giusto che sia così, non si può dire una cosa per un'altra. Io ripeto, se sento bene dico che sto sentendo bene, se ricevo bene sto ricevendo bene, se ricevo male sto ricevendo male, è inutile stare lì, magari non devo fare favori del genere a nessuno, tantomeno a te Massimiliano, che non sia un ragazzino e sei un uomo grande come me, per cui abbiamo tutti il diritto di dirci sempre la verità reciproca, per cui figurati, vai qua. Infatti io dico la verità, già lo sai Massimiliano, è quello che c'ho io dentro l'armadio, che si chiama Cobra, è superiore a quello, perciò cosa, non è che il tuo è meglio del mio, il mio ti schicchia forte. Ma l'hai detto, sì, hai ragione, è chiaro. No, stavamo parlando di baracchini seri, nel senso che ce ne sono, sì, Giulio, io la verità, guarda, ci ho speso 80 euro su questa radio, però ne vale la pena, perché mi ha cambiato tutti e tre i finali, perché questo monta tre MOSFET, tutti e tre uguali, capito? Sia il pilota che i due, diciamo, di potenza, sono tutti e tre uguali. E in più me l'ha allineato anche, capito? Visto che c'era, me l'ha allineato. io poco fa vi ho ascoltato sia in USB che in LSB, tu eri centratissimo, io non ho spostato niente, capito? Certo, guarda, vediamo, sì, quello sì, a me fa piacere anche questo, vedi, queste cose sono anche importanti, interessanti, sapere appunto che la mia radio sta andando bene, almeno da parte mia mi fa piacere saperlo, me lo confermi tu, me l'aveva confermato Claudio, me l'ha confermato anche per poc'anzi Walter, dunque sono contentissimo, perché ringrazio ancora una volta che me l'ha sistemato, che è un amico radioamatore, che tu già mi capisci di chi, ed è stata una persona gentilissima, tra l'altro non mi ha preso nemmeno un centesimo per potermi fare un lavoro appunto che gli ha portato via del tempo, che a lui il tempo, lo sai, è molto prezioso in quanto ha tante cose da fare, addirittura ha fatto delle ore piccole proprio per pensa che questo amico è venuto, ce l'ha preso, ce l'ha portato via e me l'ha riportato, non mi ha nemmeno fatto scomodare per un cosa che io magari ci ero andato volentieri, chiaramente per ritirare il mio apparecchio, invece lui no, è stato talmente bravo, è stato talmente gentile nel farmi il lavoro, nel farmelo velocemente, che se l'ha tenuto un giorno praticamente, glielo ho dato oggi, domani lo fa, dopo domani me l'ha riportato, per dire, no, la serietà della persona, già mi ha capito di che sto parlando, ok, riprendi tu e fa girare, vai. Sì Giulio, ma infatti io poc'anzi, quando Franco mi ha detto che voleva dare una lineata alla sua radio, io ho parlato di lui senza fare nome, infatti ho detto sistema le altre radio, sui baracchini non lo so, però sono sicuro che anche i baracchini li fa, capito? Ed è la stessa persona che hai detto tu adesso, senza fare il nome. Però ho tolto lui e tolto forse qualche un altro, ma uno o due non ce n'è qua a Sassari, capito Giulio? Tutto qua. Avanti qua. Come non c'è? C'è adesso Pomponio che i baracchini li fa anche senza gli occhiali, ora se c'è non si vede. Avanti, Fra. Ci abbiamo provato comunque con questo trimmer UR5, però visto non cambiava niente. Magari è partito il trimmer, boh. Comunque va bene così, dai. Avanti, classe. Comunque tutto bene a casa, sì. Ultimamente bene, si tira avanti la baracca. Un po' franchino in questo periodo perché sto facendo un sacco di cose, tra lavori condominiali, lavori in campagna. Ce l'ho sempre da fare, e la sera quando arrivo accendo, perché io li accendo sempre le radio, soprattutto in VNU sto trafficando un po' di più, la verità, di sì, però a volte vi sento, siete sul vetro, chiacchierate, prove, controprove, ma non mi va di entrare, non perché per carità abbia niente con nessuno, ma non ne voglio stare a provare controlli su controlli, no, non agi più bene. Mi tolgo e c'avevo la radio accesa, ho sentito Massimiliano che stava provando e ci abbiamo fatto due chiacchiere, tutto qua, se no neanche stasera magari avrei chiacchierato, ma già le fa bene alla radio. No, Giulia è perfetta, lasciala così, anche questa è stata fatta l'anno scorso, lo stesso, anzi la mia 2 anni fa, la tua l'anno scorso, quindi una volta che sono alliviate queste radio vanno bene, finché non si va a rumo, però il problema è di Franco, tu non hai niente da che toccare, anche quando hai abbassato l'impedenza da 50 a 500, va sempre bene, quindi non ti preoccupare, è un problema di Franco che già ho notato altre volte quando abbiamo fatto qualche passaggio in FM. FM, Fra, cosa devi centrare? C'è la centratura col Kleifer, si fa in banda laterale, ma in FM deve essere diretta. Quando una radio è perfetta, la centratura in AM e in FM deve essere quella. Evidentemente lì è stata toccata e quindi ti risulta magari la media frequenza più alta o più bassa, tutto lì, perciò bisogna avere lo strumento, metterla lì e fare le letterature come cristiani. E vedrai che viene un bel lavoro, perché in AM vai benissimo, non c'è problema. Avanti Massimiliano. Positivo, positivo, sì, ma poi non sai cos'è Fra. Il trimmer non è che lo tocchi così a orecchio. la radio va attaccata sotto strumento per essere come deve essere, capito? No, così a orecchio non riuscirai mai, perché basta che lo sfiori un millimetro e cambia totalmente, capito? No, ma proprio non cambiava nulla, cioè la sua modulazione non cambiava nulla, invece spostandolo di frequenza la radio migliora, migliora, infatti pensavo di riuscire a centrarlo, invece non, sotto zero. Questo è cos'hai, un samurai mi hai detto, no? Il samurai è tipo il Galaxy Pluto, una cosa del genere, no? No, questo no, questo va meglio, questo è il samurai, quello che stavo tarando era il Super Galaxy, è simile a questo, eh. Ma dico, il samurai è come il Pluto, là, diciamo. Sì, più o meno sono tutti simili, eh. È positivo, là, positivo, ok, avanti Giulio. Ok, sì, c'è una serie di apparati appunto che hanno più o nemmeno gli stessi componenti, per cui ecco perché appunto gli ho dato quell'elenco dei trimmer eccetera eccetera per eventuali regolazioni eccetera. L'avevo dato tempo fa, un annetto fa l'avevo dato anche a Luigi aveva uno Saturneco che era sistemato per Benino, prima era tutto fuori fase e lui con la santa pazienza, dopo che io gli ho dato tutto l'elenco dei vari trimmer relativi a ogni suo regolazione, l'ha sistemato e esce a meraviglia, anche Luigi l'ha sistemato molto bene, insomma diciamo che se non ci aiuta lui a vicenda, io non è che sono un tecnico per carità, però se una cosa la so non sono certo geloso, come mi è successo l'altro giorno, ho Massimiliano, l'altro giorno sono entrato su Cibiton, e c'era uno dalla Sicilia, un certo Angelino, che lui aveva inventato la modulazione solo col tocco della mano, come può essere accendere la televisione toccando il quadro così, no? Beh, come fai? Sì, guarda che batto anche le mani, io non sto premendo nessun tasto del telefonino e tu mi senti ugualmente, vabbè, e allora dimmi cosa hai fatto, niente da fare, non l'ha voluto dire, allora se tu non me l'hai voluto dire io non ci credo, se lui è padronissimo di fare quello che crede, di che vuole, io sono padronissimo di credere quello che mi fa piacere, ci sembra così Massimiliano, cosa pensi tu? Sì, confermo, ma io non ci credo lo stesso, che lui batte le mani sia per la portante, chi si sono cazzati, che di tu e tu? Attenzione però che si può fare col Vox Giulio, perché se tu lo inserisci il Vox nel 440, batti le mani oppure fai si parte la portante, quindi se il suo telefonino magari di ultima generazione c'è un sistema di Vox, si può fare, eh? Claudio, hey. Stiamo parlando di due cose diverse, allora tu metti il Vox sul 440, questa è un'applicazione, questa che c'è sul telefono, un'applicazione, se tu non premi, perché ce l'ho anch'io Giulio quell'applicazione lì, se tu lo schiacci lì quel pulsantino per parlare, tu non schiacci, non batti le mani e ci parli, lascia lui, ha detto, ha detto la cazzata. Sì, Massimiliano, ma infatti, scusa Giulio, ma infatti non ci credo neanche io con un telefonino, però se parliamo di sensibilità, cioè nel senso che io do un colpo e col Vox la portante parte, però stiamo parlando di radio. Di radio appunto col sistema Vox, io non penso ci siano dei telefoni, poi quell'applicazione è uguale per tutti, ce l'ho anche io, e se tu non metti il dito sul PTT non puoi andare in trasmissione, quindi è un grandissimo foraggio, anche perché non ti ha voluto dire che cosa ha fatto, capito Giulio? Sì, infatti, ma io non ci ho creduto assolutamente, il discorso è nato in questo modo, se tu sai benissimo che in quell'applicazione, Massimiliano, sai anche tu, certamente lo sa anche Franco, che esiste il dual mic, no? Questo dual mic praticamente non è altro che un Bluetooth come per quello che possiamo avere in macchina col telefono, per dire, no? E si può applicare sia alla radio, cioè al baracchino che al telefonino, questa applicazione. Lui dice invece che il sistema che ha inventato lui si è diciamo, vantato di aver inventato il sistema, che solo al tocco, così, della sensibilità, solamente mettendoci la mano avanti, già partiva la portante. Poi il discorso del VOC, se lo so, che funziona così, ma ci sono anche baracchini, addirittura il PMR, c'è un PMR, io il VOC, se penso un po', no. Sì, lo so, quello sì, per dire no, non l'ha voluto dire a nessuno, poi c'era qualche deficiente che lo ha anche difeso, guarda, tu puoi dire tutto quello che vuoi, e non ti dico che sei bugiardo, però io non ci credo, adesso trai tu le conclusioni, io l'ho risposto così, vai Franco. Capo, però non mi sembra così fantascienza, cioè, secondo me un bravo tecnico riesce a trasformare quel microfono lì, a inserirgli un vox all'interno, secondo me Claudio, io la penso così. No, vai, vai. Okay. Non lo so qua, non lo so cosa lui può aver inventato, lui si è solo vantato, io sono, dice, un radioamatore da oltre 45 anni e ho fatto tante costruzioni, ho fatto tante invenzioni e dunque questa è un'invenzione unica al mondo, dice, perché il cibitonco è universale, è mondiale, no? E nessuno ce la può avere, perché questa è una cosa che ho fatto io. Tu lo stai dicendo, mi fa bene quello che stai dicendo, però se permetti io non ci credo, scusami, ho detto, ma non ti sto dicendo che sei un bugiardo, ma non ci credo, sono lì. Poi non ho detto che è bugiardo, ma come se gliel'avessi messo detto Massimiliano. No, volevo rispondere lì a Franco, no, Fra, allora nel senso, tu hai un'applicazione che scarichi da Play Store, no? Che poi questo CB Talk è un'applicazione da Play Store, la devi scaricare, no? Come fai tu a fare il Vox a questa applicazione? Voglio capire. No, ma se lui c'è il dual mic, c'è il microfono, adesso non so se nello specifico lui usa il dual mic, Giulio, lo usa? No, appunto è quello, lui batteva su questo particolare, che perché c'erano quelle persone che avevano acquistato il dual mic che costa 119.71 centesimi, no? Per dire, e lui si stava vantando che non aveva speso quella cifra e se l'aveva fatto lui il sistema, ecco per quale motivo è sorta la discussione, riprende e fai girare poi per Claudio, vai. Ho capito, lì devi essere già uno sviluppatore per modificare un'applicazione del genere, affinché interagisca con un'altra applicazione creata da un altro. Non so neanche se sia legale una cosa del genere. Vai Claudio. Sono rientrato. Sì. Però infatti, come diceva Giulio, lui non ha fatto assolutamente niente, perché si è acquistato il microfono dual mic, può darsi pure che sia, io non lo conosco neanche questo microfono, attenzione, però può darsi pure che sia fornito di Vox e quindi lui non ha fatto assolutamente nessuna modifica, capito? Perciò stava dicendo fesserie, perché mi sembra sia impossibile che si possa fare una cosa del genere, solo se magari c'è il sistema sul microfono, allora va bene. Tutto qua. Ok, dai, signori belli, io ne approfitto e vi saluto, vi ringrazio per aver contribuito a questo piccolo questione al canale 10, è rientrato anche Daniele, io adesso porto il cane e poi Giulio c'è la partita, mi guardo la semifinale di Coppa Italia, troveranno al primo, c'è il Milan, voglio vedere se batte anche la Fiorentina, perché è diventata veramente una bellissima squadra. Sta giocando meglio il Milan, che ne abbiano detto di tutti i colori, a Gattuso fa degli ottimi cambi, che la Juventus capolista con questo allenatore di plastica. Un abbraccio a tutti, grazie, quando volete fare due chiacchiere io sono qua nel canale 10. Ciao Franco, ciao Massimino, saluto a casa, ciao Daniele, ciao Giulio, chiunque fosse in ascolto sul canale 10. Il cambio lo do a Daniele, che ha breccato nuovamente. Buona serata a tutti, buon fine serata, ciao ciao. Buonasera Gianni, ciao Cla, buon proseguimento e buon tutto, dai, ci ascoltiamo alle prossime se coincide. Vai Gianni con la buonasera. Dai, buonasera a tutti, ciao Daniele. Hey, Andrea, ciao Gianni, ben entrato, ciao Claudio, buona serata, buona passeggiata col cagnolino e ci sentiamo alle prossime, dai, vai Franco. Cazzo. Ciao Gianni, ben entrato, ciao Claudio, salutoni a guardia familiare a tutti. Avanti ancora Daniele. Cava, cava. Stavo sentendo del dual mic, così è. Scusate un attimo, prima saluto a Claudio, dai, se no lui esce e poi non mi sente. Ciao Claudio, alla prossima, dai, a domani, dai, purtroppo hai ragione, il Milan ha fatto gli acquisti eccezionali con Paquetà e Piatek, come si chiama, e Gattuso ha fatto un gran bel lavoro, veramente, sono contentissimo per il Milan. Ok, di nuovo salutoni qua, a domani, grazie a te per la chiacchierata, ci sentiamo domani. Avanti, riprendi Daniele, dicevi. Ciao Gianni intanto. Ho detto, stavate parlando del dual mic, dell'applicazione della Midland per il telefono. Sì, stavamo appunto parlando di quello, perché c'era una persona della Sicilia che si era vantato che lui non lo comprava perché si aveva inventato una cosa lui personale e non aveva necessità del dual mic, c'è solo quello, e stavamo dibattendo appunto un argomento su questo particolare. Bene, bene, bene. Avanti Massimiliano. Sì, sì, positivo, positivo. Ma questo dual mic, Daniele, in poche parole cosa fa? C'ha un microfono preciso identico a quello della Midland originale, può funzionare senza il cavo o col cavo, adesso non mi ricordo se premi la parte superiore del PTT funziona col baracchino e se premi la parte di sotto, diciamo, del PTT parli con questa applicazione del telefono, ma secondo me io ce l'ho, ma una mezza farfallata, non è come proprio la radio, ecco. Sì, infatti, no, perché io ce l'ho quell'applicazione, così ho fatto due passaggi, non mi ricordo con chi, qualcuno di Porto Torres, non mi ricordo come si chiamava, e niente, poi dove stanno tutti quanti, ho sentito pure gente che entrava col 48 modificato col dual mic, dai, e niente, però raramente, non la sto neanche più usando poi quell'applicazione lì. Così, diciamo, analogico, l'etere è sempre il numero uno, non ce n'è. Beh, positivo, la sabuba quando c'è la radio di fronte, per me è tutto un altro paio di maniche, là. Avanti, doppio. E io la faccio come te, ma ci sai quando sarebbe comodo magari, boh, con qualche amico così ti fai una scampagnata, cosa ti posso dire, 6, 4, 5 macchine che non c'hai nel radio, ecco, ti scarichi questa applicazione e ti puoi fare una chiacchierata così, giusto per, capito, però quando sono a casa non devo usare questo cellulare in mano, no, tutta la sagupa, no, con la radio è tutto un altro sistema, così è fra. Capo, io l'altro giorno mi trovavo fuori negli Emirati Arabi e lo accese perché in aeroporto c'era una bella connessione e siccome WhatsApp non mi faceva fare la chiamata né la videochiamata, era proprio bloccata dalla... penso che sia una cosa loro, non ti permettono di usare le chiamate, e ho acceso con questa applicazione e mi ha fatto una chiacchierata con uno di Iglesias per esempio, eppure ero dall'altra parte del mondo, ho passato un'oretta mentre aspettavo l'aereo e mi sono divertito, dai, riprendi ancora Massimiliano. Sì, sì, ma è giusto così, capito Franco, ma quando sei a casa, che c'hai un gruppo di amici che ha la radio a casa o ce li hai in vettura, è sempre meglio, dai, la radio secondo me è la radio, il telefono è il telefono, la radio è la radio, no, non c'è paragone, dai, avanti giù. Ok, Massimo, io concordo con voi per quello che si è già detto, e cioè che la radio, il baracchino o la radio è sicuramente di gran lunga più bello e più soddisfacente anche, questo non si discute, questo sì, però ciò non toglie, e io questo lo riconosco, che hanno fatto una gran bellissima applicazione, per chi magari non ha la radio, chi non ha il baracchino, serve anche per poter contattare amici anche lontani, tipo ad esempio io un mesetto fa ho Massimiliano, tanto per dire uno, tu ti ricorderai di Salvatore Maestrale, Salvatore Branca, io l'ho ascoltato mentre lui lavora in Australia già 6-7 anni e mi ha fatto molto piacere ascoltarlo e parlare con lui per un po', tutto lì. Oppure per quanto riguarda il questione locale, invece io ho consigliato agli amici di Sassari che se proprio dobbiamo andare su Cibitorco, anziché passare nei canali nazionali, per così dire, di passare sul canale esatto, cioè sul CH, sul tasto CH, per poter appunto parlare fra di noi nei dintorni di 30 km. Certo, non è mai il baracchino, indubbiamente, il baracchino è tutta un'altra cosa e a me mi piace principalmente quello, infatti veramente ci vado sul Cibitorco, perché ci vado proprio quando non c'è proprio nessuno, che sono magari una serata intera all'ascolto qua e non sento nessuno, allora per passare anche 10 minuti ascoltando passo lì. Alle volte ho sentito per dire a Pierpaolo della Feroce, diciamo, il Bomboraio con Antonio, che loro utilizzano soprattutto per il lavoro, il padre impartisce ordini al figlio quando deve trasportare una bombola da un posto all'altro senza bisogno che rientri in negozio, glielo dice tramite telefono, oppure che so io parlo sul canale 14, molto spesso c'è Leoncino, molto spesso c'è Antonello Pomponio, facciamo piccolo QSO, ma non più di tanto. Poi per quanto riguarda i canali nazionali, io se ci sono più di 7-8 persone non c'entro nemmeno, perché mi dà fastidio quando ci sono 50-60 persone, tutto lì. Scusate il passaggio lunghissimo che ho fatto, dai, avanti Gianni. L'unica comodità è che si mette l'antenna, è quello lì il problema, invece tutti rimangono a tamburia, a Toscano, ma fare qualche fa una un'antenna, c'è da andare a Toscana, a e poi hai la possibilità di seguirti, di seguire una persona, tipo due camionisti, amici, si possono seguire anche se vanno in due direzioni completamente diverse. Hai capito come funziona? Daniele, riprendi. Gava, che c'è anche il sistema radar lì che ti fa vedere chi c'è, chi non c'è, e poi c'è la parte della cartina dalle varie regioni. È carina come applicazione, è carina, però non mi attira più di tanto. Scusate che io riprendo perché mi devo allontanare, mi hanno chiamato giù e devo scendere, dai. Mi ha fatto piacere questo piccolo QSO, dai, sono da tanto che non lo accendevo la radio, ma comunque è sempre bello sentire gli amici, dai. Sì, è solo bella, Daniele, questa applicazione, perché non hai problemi di propagazione, capito? Non devi aspettare l'estate che si apra la propagazione per parlare con tutto il mondo, qua puoi parlare tranquillamente dove vuoi. Ok, ciao Franco, Daniele, Gianni, Giulio e chi ci fosse in ascolto, dai. Io aspetto il finalino e poi non riprendo più. Buona serata e buona continuazione. Sì, ciao. Ok, ciao Massimiliano, intanto ti ringrazio per il QSO che è stato bellissimo, stasera mi sono divertito da matti veramente in questa ruota qua. Ok, ti ringrazio e soprattutto spero di risentirti molto presto, perché tu lo so, sei impegnato, hai poco tempo per entrare in frequenza, ma questo mi fa enormemente piacere quando ci ascolto, per cui sappi che noi ci siamo sempre la sera, se non siamo, magari siamo all'ascolto, se non c'è nessuno fa una chiamatina, fai la cortesia, così se c'è qualcuno ti risponde senz'altro, soprattutto se ci sono io avrò senz'altro piacere di risponderti. Va bene, ciao Massimiliano, grazie, saluto in casa e ci sentiamo, faccio girare per Franco per i saluti, vai qua. Ehi capo, ciao Massimiliano, ben sentito come sempre, alle prossimine, fa sempre piacere. Avanti Daniele. Ciao Massimiliano, buon proseguimento e spero di sentirti presto alle prossimine, dai. Va bene, riprendi Gianni, che ora sento 5 minuti e va a farmi una sigaretta. Non fumare che ti fa male. Anche a Franco c'è, ciao Franco. Sono un sentito, perché ho fatto tutto. Proiettata? No, praticamente c'è, non so se mi spiego, c'è un sostegno che viene di cellulare e praticamente la mattina è diversamente, e tu lo vedi praticamente, ingrandisce solo l'immagine che c'è dietro, capito? E la lente quanto è grande? E quanto appena più grande del telefono rimane, un po' più grande, là. No, pensavo fosse tipo un televisore, questa lente è così grande, detto. Sì, no, tipo un televisore, però un televisore non portato, è così. Sta ne grandisce abbastanza, vabbè, con tutto quello che vedi nel telefono è grandisce abbastanza, immagine, però e poi si piega, capito? C'è una specie di custodia che si piega tutta e si conserva. Si ristalla su forma piegata questa custodia e potrebbe non è modo che il telefono rimanga aperto. Non ho capito, no, pensavo la proiettasse sul muro, tipo un videoproiettore, dai. Avanti Giulio. Ok, e oggi esistono tanti accessori, esistono appunto la tecnica fatto parte da gigante, veramente, e dunque ci sono delle cose straordinarie. Allora, tornando per un attimo ancora a quel microfono lì, dual mic che si chiama già, e diciamo che ti serve anche come Bluetooth per la macchina, perché in caso di che ricevi una telefonata puoi parlare senza prendere il microfono in mano, perché già si può adattare sia per il baracchino che per il microfono. Se poi il microfono ti dà fastidio il cavo, si può anche togliere e utilizzarlo solo esclusivamente per il telefonino, ma ripeto è un Bluetooth praticamente. Io sinceramente parlando ce l'ho il Bluetooth per il telefono e in macchina, non è certamente il microfono, però ho solo la possibilità di parlare col telefono, cioè quando ricevo la telefonata oppure che la faccio io la telefonata, ma di parlare con il CBTalk non di certo, perché è tutta un'altra questione, ci vuole esattamente il microfono che ha inventato la Midland, che l'ha inventata soprattutto con lo scopo soprattutto di vendere, perché per loro è un fatto di commerciale, se no che motivo avrebbero di inventare una cosa del genere, perché vogliono commerciare i loro prodotti eccetera eccetera, tutto lì. Avanti Franco. Registrato il fisco, resta sempre il fatto comunque che in macchina o in camion non si può usare il microfono, perché non puoi utilizzare nessun apparecchio, devi avere le mani comunque libere, no? Non impegnate in apparecchi vari. Vediamo un po' chi è il fisco, avanti. Buonasera a tutti, Gianni dalla stazione, buonasera. Ciao Gianni, ben sentito per la prima volta, dai, avanti l'altro Gianni. Ciao Gianni, ben sentito per la prima volta. Ho messo l'antenna sul tetto, Giulio mi ha fatto il cacciatone, mi consigliava sempre di mettere l'antenna sul tetto e finalmente ce l'ho fatta, volevo provare per vedere come va. Ciao Gianni, finalmente mi hai dato retta, almeno ti posso ascoltare, hai visto che il mio non rimprovero, per carità, ci mancherebbe altro, il mio consiglio, apprezzalo in quel modo, ha fatto effetto, visto e considerato che ti sei deciso a mettere l'antenna sul tetto. Adesso ti ascolto Gianni, ti ascolto anche bene, sono contento per te, guarda, così almeno puoi fare parte della nostra famiglia, così degli appassionati della radio. Ne prendi ancora Gianni, c'è anche Franco e c'è anche Daniele, che poi vi fai girare per loro, vai. KK, un saluto a tutti, bene, grazie Giulio. L'antenna è un'antenna veicolare, sarà alta 1,70, l'ho messa su nella terrazza e niente, ho visto che funziona, quindi bene meda. Ok, avanti Daniele, se mi copi. Daniele, hai ascoltato Gianni? No, allora Daniele si è assentato, non ti ha ascoltato perché non c'è, non sente nemmeno me. C'è Franco, avanti Franco. No, qui arriva benissimo Gianni, ho capito zona stazione, giusto? KK, proprio 10 metri prima del piazza della stazione. Quindi siamo 10 metri, anche io che arriverò forte sicuramente. Anche qua arriva fortissimo, Sì, arriva bene anche da me, considerata la distanza, Gianni, arrivi bene anche da me. Ma con questo passaggio che farai adesso, che io te ne lancio, ti darò anche il segnale, dai. Così tieni presente che io sono lì, zona dei punti, per cui con l'antennino non sarà un grande segnale, ma è più che sufficiente per ascoltarti, in quanto la radio è ottima, va benissimo, non ci sono problemi. Vai Gianni della stazione, Kappa, grazie Giulio, guarda, sto modulando con un vecchio barattolo degli anni, sarà fine anni 70, è un 40 canali a sashi, roba fine anni 70, forse primi anni 80, lamierino, smitter, squelce e volume, proprio semplicissimo, l'ho tirato fuori da una cassetta da sottoscala e niente, ho visto che funziona e anda bene. Certo, ti rispondo ancora io, visto che ti ho rilanciato, certo Gianni, allora il tuo segnale per te è quasi 9, la radio è ultima, la radio 5 è perfetta, per cui va più che bene, finalmente almeno ci possiamo sentire, l'altro giorno mi è anche dispiaciuto non potete coinvolgere nel QSO perché ripeto non ti sentivo io e non ti sentivo nemmeno Franco di Sorso, non ti sentiva, per cui era impossibile poter dialogare, e quando succede così a me mi dispiace non poter dialogare con tutti, sinceramente, ma non per me personalmente, ma per la persona che rimane diciamo così dietro senza essere corrisposto, tutto lì, niente di particolare. Va bene, avanti Franco. Ci sono passato anch'io qualche tempo fa, quando anch'io modulavo con un antennino qui fatto di fil di ferro, non sentivo nessuno, anzi non mi sentiva nessuno più che altro. No, funziona bene quell'apparecchio, esce bene, non ha nessun problema, non gracchia, non raschia nel microfono, sicuramente funziona ancora bene quell'apparecchio. Avanti, doppio rombo. Avanti Daniele, poc'anzi ti abbiamo chiamato ma non hai risposto. No, mi sono stato un attimo perché sono andato a farmi una sigaretta. Ah, più tardi sei andato, ho capito. Vediamo se ascolti Gianni, anzi prima chiedo a lui se ha ascoltato te, perché tu sei un po' lontanuccio. Avanti Gianni dalla stazione, hai ascoltato Daniele? KK, mi entra bene qua, mi arriva pulito, sicuramente magari mi copia anche lui. Ha voglia, buonasera. Siamo... Hai visto Gianni nella stazione come è bello sentirsi tutti quanti? Così va bene, dai, sono contentissimo per te soprattutto, così almeno incrementiamo anche il numero dei CB come personaggi, come persona, e questo è importante. Va bene, avanti Franco. Voglio chiedere a Gianni della stazione se hai fatto i dovuti controlli per l'antenna, sì. Guarda, ti dirò, questa roba proviene, l'ho smontata praticamente qualche anno fa da un vecchio camper dismesso, l'ho smontata praticamente della giubbucca, l'ho arrombata da una parte e l'altro giorno mi sono deciso di rimetterla in funzione, tutto qua. No, ci hai controllato se ci hai stazionare roba del genere? Non ho lo strumento per poter fare cose del genere, mi sono limitato solo a controllare le connessioni e attaccare tutto e boom. Ho capito, meglio sempre dare uno sguardo, comunque vedi un po' se non scalda niente, ma perché è abbastanza fresco. No, guarda, è tranquillo, per avere gli anni che ha, no, guarda, ci sto mettendo una mano sopra, è proprio freddo. Beh, meglio così, dai, avanti di doppio rumo. Praticamente c'è una terrazza sopra il palazzo, io abito all'ultimo piano per cui ho fatto scendere qualche metro di cavo dalla finestra e sono due tubi praticamente, dove è stato messo che passano da una parte all'altra e passa il cavo da stendere e con dei morsetti ho fissato praticamente la staffa che era attaccata al camper, l'ho fissata al tubo. Vai Claudio, vabbè dai, già rientra Claudio, vuol dire che è impegnato col cagnolino adesso. Sì, Gianni, sì, no, ma quello che ti chiedeva Franco, che appunto te lo volevo chiedere anch'io in questo passaggio che adesso sto facendo, perché lui mi ha preceduto e ha fatto benissimo a chiedertelo, dico non alle stazionarie, però potresti affidarti magari a qualcuno, oppure te lo compri un rosmetro, costa 20 euro, mi guarda, ce l'ha la cosa, c'è la Fusaro e c'è anche lui alla GBC, con 20 euro hai un rosmetro, non sarà un grandissimo rosmetro, ma quanto ti serve appunto per controllare, con 20 euro è piccolissimo, saranno 7 centimetri per 6 di grandezza, 6 per 7, 6 o 8 per 6, una cosa del genere, per cui se lo metti e controlli, così almeno ti togli qualche dubbio, ogni dubbio per quanto riguarda le stazionarie. Ogni modo, adesso che stai modulando senza sapere niente, ogni tanto tocca soprattutto il fianco del baracchino e anche dietro, e così ti rendi conto se scade eccessivamente, per cui se riesci a friggere le uova allora si sa che devi spendere tutto lì, o Gianni avanti le prendi e poi fai girare per Claudio che sicuramente è l'ascolto. Vai Gianni. Kappa, no guarda, l'apparato è proprio freddo, cioè proprio alla grande, ti ripeto, era l'ho smontato, era attaccato a un camper, è roba vecchia, comunque vedo che si comporta ancora bene, quindi mi fa piacere che funzioni ancora visto che non l'ha già pagato nulla. E niente, sì, appena mi sarà possibile vedo di comprare un po' di cavo nuovo, il BL, insomma, quando mi sarà possibile cerco di dare una sistemata a tutto, dai, avanti Franco. Cazzo, no, sempre meglio, perché è un peccato rovinare apparecchi così del genere. Vediamo un po' se Claudio è rientrato. Claudio, ci sei? No, continuate pure, ho già salutato, era giusto per capire chi era. Santiago Nova è qua, Gianni, comunque, buonasera, ve l'ha ascoltato, Claudio Sparviero da Sassi. Era giusto per capire chi era, perché non, dalla modulazione non l'avevo riconosciuto. Continuate pure, intanto fra un po' è pronta la cena, poi, rispetto, vado a vedermi la partita. Via, via! Vedrete già come gli. Dai, rinnovo i saluti nuovamente a tutti, già ci sentiamo domani se coincide. Avanti Gianni, riprendi tu e fai girare. Grazie Claudio, ben sentito, già ci conosciamo, ci siamo sentiti con un portatile tempo fa, con un Midran che stavo provando. E niente, ben sentito, salutoni anche a te. Insomma, dai, per quanto mi riguarda, per l'attrezzatura che ho, sono a posto per adesso, dai. Avanti Giulio. Ok, d'accordo qua. Allora buona partita ti auguro dopo e buona cena adesso appena che la farai, certo. E anch'io fra un po' sacco e anch'io vado a cenare per poi andare a vedere la partita, certo. Perché la voglio vedere nel televisore grande del salone. Sì, c'è anche il cucino, il televisore, ma quello un po' più piccolo, diciamo che la partita mi piace vederla più grande possibile. Va bene, così va bene. Sì, io ho Gianni della stazione, sono contento comunque, dai, che hai dato retta così, sono veramente soddisfatto, così almeno incrementiamo anche il numero degli amici qua, che questo è importante, perché se no la frequenza muore del tutto, e dunque, anzi, se hai qualche amico che puoi cercare di invogliarlo anche lui, di comprarsi un baracchino e di entrare, fallo pure, e guarda, e questo è importante per tutti noi, così almeno abbiamo più amici e di conseguenza più possibilità di dialogare. Quello sicuramente. Va bene, faccio girare. Vai Franco. Sì, vorrei chiedere a Gianni questa passione come ti è arrivata, come è venuta. No, guarda, io metà anni 80 c'avevo un apparecchio, avevo degli amici, abitavo nella zona del mercato, l'ex mercato civico, e niente, insomma, mi ero comprato un apparecchio, ho messo l'antennino, sono stato un po', poi praticamente sai com'è la vita, no? Ti porta a fare altro e ho praticamente mollato e niente, insomma. Poi mi è ricapitato del materiale, tipo un portatile qualche anno fa, un Alan, anzi non mi ricordo, non ce l'ho qua, portata di mano, e sai, i ricordi, ho preso, ho attaccato, l'ho acceso e ho beccato Claudio, anche Giulio, insomma, qualche volta mi ha riacceso i ricordi, dai. Ma avevi un nominativo? Sì, all'epoca mi facevo chiamare Condor, poi c'era Marcolino, insomma, era un mezzo casino. Sì, praticamente era Condor, poi per evitare praticamente problemi mi facevo chiamare Grifone. Ho capito. Vai, vabbè, altri tempi, dai. Avanti, doppio rombo. Per Grifone te lo puoi lasciare allora. Un po' che non lo sento a Marcolino Condor, come mai? Gianni, sai qualcosa? No, negativo, l'ho sentito qualche giorno fa, quando ho attaccato l'apparecchio, c'avevo l'antenna qua sul davanzale della finestra, giusto per provare, ma no, niente, non è da quel giorno che non lo sento. E niente, avanti Giulio. Ok, se rispondo io qua, io sono a una conoscenza della sua pigrizia, in questo periodo Marco, spero che rientri subito e che continui più assiduamente come faceva un po' di tempo fa, mentre invece adesso entra saltuariamente così in frequenza, chiaramente non so per quale motivo, evidentemente avrà le sue ragioni, i suoi problemi, certo. Va benissimo così, bene, comunque. Va bene così, dai, io sono in frequenza da quanto ci siamo fra, io penso da almeno un paio d'ore circa, no? Confermi? Al quadrato forse. Appunto, sì che adesso a questo punto sono già le 8:15, se non sbaglio, circa, sì, quasi, le 8:13, le 8:12, dunque mi sa che vi saluto così scendo per la cena, magari mi sta anche aspettando mia moglie. Ok, ciao Franco, grazie per la chiacchierata, è stato bello stasera, ci sentiamo domani se coincide, se hai voglia, io sarò senz'altro in frequenza, se Dio vuole. Ciao Gianni del Monte e Gianni della stazione e anche Daniele sicuramente. Alle prossime, grazie a tutti per il QSO, per me è stato un piacere, vi ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo per la cena. Avanti Gianni del Monte. Ciao, ci sentiamo, ciao Giulio, buona contatta come sempre, fa sempre piacere modulare con te. Grazie ancora per i vari aiuti che mi hai dato. quando coincide, perché anch'io tra un po' farò dei turni e quindi non saprò il tempo che avrò, però ci sentiremo alle prossime. Avanti Gianni della stazione. Caffa, ben sentito Giulio, buonasera. Volevo chiedere a Gianni del Monte come ti arrivo su da te. Si è allontanato, guarda. Comunque qua mi arrivi 9:20. Fra, dove, in che zona ti trovi? Io sono nel Monte Basso, quindi saremo neanche un chilometro di distanza. Kappa, bene meda. Dai, il barattolino funziona, vedo che si sta comportando bene, dai. Daniele, avanti per i saluti. Ehi, AK, ciao Giulio, se coincide ci ascoltiamo domani, dai. Sì, io già nella stazione con la mia antenna in poche parole ce la siamo di fronte, dai, perché se qua salgo sul tetto la vedo la stazione, diciamo. Scusa Fra, figurati, negativo ringraziamento, ci mancherebbe, Fra, ma vuoi scherzare? Cazzo, quando io avrò necessità di sapere qualcosa da te, stai tranquillo che te lo chiedo, perché so che tu sei una persona gentile che sicuramente mi informerai di quello che magari io non so. Ok, ciao di nuovo a tutti, dai, salutoni, guarditi per me, dai, ciao, riprendi pure Fra. Caffa, un abbraccio grande, grazie. Daniele, adesso tocca a te, via, a metterti l'antenna sul tetto, dai. È bello che io ce l'avevo. C'avevo l'antenna, c'avevo linea completa del K e poi la giocava ad un tutto. Mannaggia, va bene, adesso a breve già mi attrinzo prima o poi, perché così è una paranoia, anche troppo, ripeto, quello che sta facendo questa antenna, perché non c'ha niente di suo alla fine, è tutto fatto ad acrucchi strani. Perché qua c'è il segnale molto basso il tuo, se dovesse un po' di QRM o qualcosa, un qualche disturbo delle pompe di calore che ho qua vicino, già non ti sentirei più, Gava, perché come segnali che ricevo non mi posso lamentare in ricezione, perché state arrivando bene o male tutti forte, sia di radio che di segnale, è che la mia è un po' tirchia nel trasmettere. E vabbè, ripeto, ho fatto lo stiro per tararla da un'antenna di TV, diciamo, quelle allungabili, pensa a due. L'antenna è tutto, perché puoi uscire con un watt se c'è una buona antenna, non dico arriverà per tutto, ma quasi, dai. Ok, dai, io vi saluto, che anch'io vado a vedermi la partita. Saluto Gianni, anche Gianni Doppio Room, ancora Giulio, se è ancora l'ascolto, e a te Daniele, dai, e Claudio se è in ascolto. Ok, riprendi Gianni dalla stazione. Kappa, mi sa che è ora di ritirata un po' per tutti, anch'io mi ritiro, vado a finire roba al computer. Ciao Franco, ciao Daniele, ben sentiti tutti quanti. Dai, magari ci becchiamo domani, insomma, domani o quando sarà, dai. Grazie di tutto e alla prossima. Buon proseguimento a tutti. Ciao Gianni, ciao Franco, anch'io chiudo e vado a vedere anch'io la partita, dai, che qua fra un po' si fa un po' di carica. Ciao Gianni, se ne ascolto, ciao Claudio. E a sentirci tutte quante alle prossime, buon inizio di giornata per domani, dai. Ciao Daniele, ciao Daniele, faccio correnti anche io, buonasera a tutti, ciao Gianni. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.